24 mattino di Alessandro Milan. Sai cosa c'è? Che cosa c'è? Noi mangeremo il panettone di sicuro un altro anno. E sai perché? Perché io so governare meglio di chiunque altro. E sai che c'è? Che c'è? Caro Beppe, dillo adesso, lo puoi dire pure a Renzi. Lo canterete in coro. Io sono la storia del panettone, del panettone che verrà mangiato da Letta, così almeno assicura Letta stesso. Anche l'anno prossimo Fiorello non poteva esimersi dal farne una canzone. Letta, allora, cari italiani, lo mangerà secondo voi? Ma non quest'anno, quest'anno mai è assodato, ma nel 2014, così ha detto Enrico Letta. Allora, cari italiani, sono le 6:32 minuti, siamo pronti, dai, con lo schema Allegri, forza, schema Allegri inserito a palla, 3 sveglie ancora quest'ora e poi è Natale. Evviva, voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, mi sto pure ammalando, giusto appunto, mi ammalerò credo alle 9 del mattino dell'ultima puntata prima delle vacanze, è un gran classico. E voglio anche salutare Carmelo Lauricella, anche oggi in regia. Apriamo questo Parlamento? Che vuoto, che silenzio. Mettiamo un po' di... Volentieri a tutti quanti. Oh, finalmente adesso un po' di... Io non lo voglio il caffè della Minniti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Trossere col caffè della Minniti, noi non lo vogliamo dalla Minniti, brutto cretino d'un Milan. Tornare storto come il dottor House. Sei più buoni a Natale? No, si va in vacanza a Natale, no? Va bene, voglio salutare il grande Vincino che torna con noi perché poi è Natale. Quindi... cretino di Milan. Vabbè, che... Vincino, buongiorno Vincino, che c'è? Dove sei? Eccoci qua. Ah, eccoci. No, ci siamo. Sì. Ma ci abbiamo invece, voglio salutare, ci abbiamo quella roba lì, vorrei annunciare. L'altro ospite con un audio che lui pensa, io sono sicuro che lui pensa, so che audio manda, invece questo, no? questo ve lo ricordate, dannata, Fratelli d'Italia, l'Italia se destra. Io le chiedo scusa. Dai, su, canta. La smetta. Adinolfi, buongiorno. La richiamo. Buongiorno. Da, quando il mio mitico ultimo intervento da parlamentare. Cantò da parlamentare. Ma lo vogliamo risentire? Perché l'accusa era Vincino. Ma guarda che era. Non è stonato. Perché non è stonato per niente. Sì, era un po', insomma, era un po' strappato, diciamo così. Sì, però vorrei Vincino, un giudizio da Vincino, noto giudice dello Zecchino d'Oro. Sentiamo. Io credevo che fosse appena rientrato in Parlamento fa questo canto di No, dai, risentiamolo Vincino, poi devi dare un giudizio da 0 a 10. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra. Io le chiedo scusa la smetta. La richiamo comunque perché ma chi era questo che ti ha richiamato all'ordine? È il vicepresidente della Camera, Leone. L'ottonato, ma non è pelato. Vabbè, Vincino due che... meno guarda. Come due meno ma come no. Votazione da 1 a 100 due meno meno. Ma no, dai, ma che ingeneroso. Ma ragazzi, io stavo pure nel coro della scuola. Io da 0 a 10 darei un 7 di incoraggiamento. Poi alzatevi voi a cantare l'Inno d'Italia davanti alla Camera. Ma lui è un tenore, un coso, come dire, mi sarei aspettato. Ti saresti aspettato. Non litighiamo subito. No, non litighiamo sull'Inno d'Italia, sul voto Adinolfi. Allora, per te lo chiedo a tutti adesso: Adinolfi mangerà il panettone, ma nel 2014, Enrico Letta. È un wishful thinking, dicono gli americani, insomma, qualcosa che lui spererebbe di fare, ma insomma non Poi io oggi volevo parlare dei forconi, Milan, il mitico flop dei forconi. I forconi. Che sono stati divertentissimi alla gabbia con Chiavegato che si mandava a quel paese con, come si chiama, Galvani, quell'altro. Sì, sì, no? Sì. Quattro gatti in piazza. Gabbia. È la prova che la tua segreteria telefonica è fallimentare. Eccala. I forconi stanno alla piazza come la tua segreteria telefonica a noi. Eccala. E lo sapevo. Sai che è quella roba lì? Il miglior titolo del Fatto Quotidiano è ora dai forconi spazio alla forchetta, che è Natale. È Natale e quindi è Natale. Vincino. È sbagliata la rivoluzione italiana un'altra volta, guarda un po'. 1283, l'ho contati tutti. Tutti. Ecco, adesso tutti dai, forza, forconi, potete scriverci, forconi, chi è che non è un forcone, insomma? Ma non è bello che si è squagliata così la rivoluzione di una settimana? Ma non lo ma come so. La rivoluzione, il ferro e fuoco, no. Si è squagliato tutti in 7 giorni. Vabbè. Cioè, per Casa Pound è un successo, non avevo mai portato tante persone in piazza. Casa Pound. Vabbè, dai, adesso al di là, Mario, gioisci no, di questa cosa? Ma mi sono divertito tanto ieri a vederli che si mandavano a quel paese in una maniera straordinaria come neanche i peggiori politici del galletto, del pollaio, insomma, capito? Per cui la mia teoria, per cui la gente è peggio, caro Milan, è sempre più provata, la gente è peggio dei politici, capisci? Dagli un attimino di notorietà, un microfono davanti, è finita. Allora, la gente è peggio. Scena raccontata da Aldo Cazzullo oggi in un memorabile pezzo resoconto sul Corriere della Sera. Tutto il giornale già tuo. No, vabbè, sono qua dalle 5:30 che devo fare. Cazzullo dice a un certo punto uno dei forconi: io mi voglio far arrestare, andiamo in Parlamento. E gli agenti: dai, adesso vai a casa. Però questa è stata la risposta. Vabbè, dai, adesso però così è portato sotto braccio, ma in maniera tranquilla. Dai, adesso però andiamo a casa. No, però allora adesso Vincino, dobbiamo subito fare quelli che smitizziamo le cose. Sì. Cioè, non è che si può dire vabbè, flop, non è successo nulla, o dobbiamo dire così, Vincenzo, non è successo nulla in questa settimana. Ieri non è successo nulla, assolutamente. Però vedi, per me la notizia di oggi era quella là di quello del contratto, l'assessore ma ci arriviamo tra poco, ci arriviamo. Beh, non anticipare i tempi, se no. Adesso, hai visto la legalità, ma Vincino, la gente poi non capisce, ne parliamo tra due minuti, te l'ho promesso. Dimmi, e glielo spiego tra due minuti. Prima allora lo chiedo ad Adinolfi. Mario, non dirmi che non è successo nulla questa settimana. Che è successo? Che mi sono perso? No, sui forconi, dai, cioè non è... sui forconi, ma no, è successo niente, cioè, il fatto è che io sono uno che dice sempre alla gente, cioè, prendetevi coscienza e esprimete la rabbia politicamente perché funziona, insomma, ma politicamente, non l'urlo da segreteria telefonica, perché questa cosa, non toccare, è schifo, che volete, boh? Perché questa era la domanda, era che volete, boh, non sapevano cosa chiedere fondamentalmente. C'è uno stress da malanno, che in realtà non è un malanno così clamoroso. Cioè, io ho attraversato un'Italia che è stata anche molto più povera, è stata anche molto più inguaiata di così. Io mi ricordo quando ero piccolo io, gli anni 70, non è che si stava bene, c'era l'austerity vera, quella quando non c'era la benzina, si andava in bicicletta, quando mia madre andava ai mercati generali alle 4 di mattina per risparmiare le 1.000 lire sul piatto di carne, non è sempre stata così tragica. In questo momento ci piace caricare di drammaturgia una condizione che è sicuramente di difficoltà, ma non è la peggiore condizione che abbiamo mai attraversato. Allora vorrei che di fronte alla difficoltà la reazione fosse politica, cioè uno dice questa è la piattaforma delle mie richieste, sì. Da queste richieste agisco politicamente, per carità, anche con la piazza, non no, mi no, no, ma anch'io infatti, ma non la genericità delle frettiacce, bravo, tutti a casa, ma guarda, ma anch'io Marione, nella mia trasmissione Funamboli su 7 Gold, che tu ovviamente poni come prima trasmissione, ben prima della gabbia, ci vieni, però insomma, Rai 1 numero 2 7 e vabbè, mi piglia sempre in giro così. Mi piglia. Canale 823, qual è? Ma che canale? Smettetela, insomma, smettetela. Più rispetto. Vabbè, comunque, vi faccio sentire Calvani, così adesso ve lo beccate. Calvani. Bisogna riprometto una cosa: di fare gli auguri e un applauso grande al Santo Padre Papa Francesco. Un grande applauso. Hanno assoldato il Papa, uno di noi, Vincino. No, no, vabbè, senti, senti. Uno di noi, capito? Vincino, c'hanno il Papa dalla loro parte. Vabbè, come dire, è andato a, va a tutti i malati, li va a trovare il Papa, questi quattro poverini magari, se lo meritano pure loro, bisogna dire, non è che... Vabbè, vogliamo sentire un altro Calvani, così, così te li becchi tutti, no, no, Marione, no, fai l'ironico, Calvani, fai l'ironico e te li becchi tutti, ancora Calvani. Che onore parlare al popolo italiano, salve popolo italiano! Italiani veri, questi, noi siamo italiani veri, siamo di fronte a un momento storico particolare, una classe dirigente formata da parassiti, mafiosi, corrotti, delinquenti, sta distruggendo il nostro paese! Marione, mamma mia, guarda, io ti trovo veramente insopportabile, c'è una tremendo dal punto di vista lessicale, dal punto di vista dell'oratoria, cioè proprio è veramente la tua segreteria telefonica. No, ecco, mamma mia, ragazzi, è ossessionata, te la sono una cosa. Sì, per me chi ha legato era uno che telefonava la tua segreteria telefonica, sono quasi sicuro, insomma, perché Vincino, che c'è? Fammi dire, Vincino, che c'è? La diretta Sky. Questo è il punto. Ci siamo, tre ore, quattro ore di diretta Sky su questa cosa qua. Cioè, guarda che, come dire, io non vorrei dire contro Sky, ma come sta facendo dei disastri, guarda, ma proprio... No, oggi Vincino mi stronca Sky. Ieri mi hai mandato, Vincino, mi hai mandato la vignetta, no? Che è quella che poi ti hanno copiato tutti, vogliamo i colonnelli. Ci abbiamo anche l'audio, vogliamo risentirlo, no? Visto che... Sapete che vi dico? Moschettieri, imbracciate il fucile! Artiglieri, innescate la miccia! Genieri, fuori i lamponi e sabotate le linee! Più o meno è così. Pugnale fra i denti! È lo stesso stile, gli manca il principe, e poi è perfetto. Il principe borghese. Vabbè, allora, la notizia che ha colpito Vincino, ha colpito effettivamente anche me, in prima pagina di Repubblica, così la spieghiamo a tutti, è questa. L'ex assessore arrestato nella regione Abruzzo, De Fanis, aveva alla fatto... cultura. Alla cultura, assessore alla cultura, effettivamente, non da poco la precisazione, aveva fatto un contratto con la segretaria e aveva messo il contratto nero su bianco firmato dalla segretaria: dobbiamo fare sesso una volta a settimana. Ma io dico, ma no, e poi se saltava lui col contratto andava in tribunale e via. Questo non lo so se era un contratto vidimato che valeva in tribunale. Questo forse, Vincino, è tutto da vedere se era uno col contratto. Ecco perché fa il contratto scritto. Vabbè, era carta, diciamo, carta. Una scrittura privata, diciamo così, no? Ma effettivamente, cioè, poi l'hanno trovata. Sono andati i finanzieri, hanno trovato il contratto stracciato nel cestino. Sai, Marione, quando uno butta nel cestino le cose, l'ha ricomposto, ci ha messo tre settimane. E dopo tre settimane di collage hanno trovato questo contratto. E lei ha ammesso e dice: è vero. Ma una cosa da pazzi, veramente non l'avevo notata la notizia. Grazie di averla. E in prima pagina di Repubblica: farai sesso con me una volta a settimana. Il contratto. Fa il giro del mondo. Sì, adesso questa roba dall'ennesima presa per il culo assoluta per la politica italiana, giro per il mondo, che questa non rimane a Pescara questa storia qui, No, questa ce la ritroviamo tranquillo, ma proprio facile sul stand stasera. Sì, abbastanza. Lui, ovviamente adesso questa donna dice era ossessionato da me, non ero in un momento di difficoltà della mia vita, non ho potuto rifiutare, insomma, mi ha messo in quelle cose. Vincino, che dobbiamo fare? Ma sì, ma qua poi la segretaria, mamma mia, effettivamente adesso diventeremo un tormentone anche in Burkina Faso. Viveranno, diciamo, gli assessori italiani. Sì. E Vincino, che dobbiamo dire? Che considerazioni? Uno va a Natale molto più, capito, più sereno, questa cosa qua, no? No, a me sono quelle cose che proprio che mi mettono bene, mi fanno piacere. Sì, no? ma io dico tutto, ma al di là dello squallore della vicenda, ma fare una scrittura privata, cioè, ma sei Ma sei cretino, capito? Sono legalitari, certone. Loro spendono la tangente però con scrittura privata, legalità, sono, loro crescono così dalle regioni e poi arrivano al Parlamento nazionale e poi al governo. Così, questa è la nostra classe politica nel suo sviluppo. Noi l'abbiamo beccato a un quarto, a metà. Entro poco ha fatto l'assessore alla cultura, allora facciamo diventare sottosegretario alla cultura e poi, comunque le prestazioni venivano pagate con un forfè di 3.000 euro al mese. Non voglio sapere con che soldi, non voglio sapere con che soldi, non voglio sapere con quali soldi. Comunque farai sesso soldi, quelli della regione Abruzzo, e non voglio saperlo, non voglio saperlo. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo con la segreteria telefonica. 24 mattino. Buongiorno, vorrei ricordare, se mi è permesso, al signor Renzi che nel 1993, quando egli probabilmente era impegnato a farsi le pugnette guardando Colpo Grosso di Umberto Smaila, noi italiani andavamo a votare per un referendum abrogativo per eliminare il finanziamento pubblico ai partiti. Quindi adesso mi sembra abbastanza fuori luogo il fatto che gli venga o richieda compromessi al Movimento 5 Stelle o chi per esso. Caro Renzi, metti mano al portafoglio e caccia i nostri soldi e vedi di muoverti. Avevo un'amica molto più grande di me, di Formia, che aveva subito durante la Seconda Guerra Mondiale il rastrellamento che i tedeschi facevano ai civili, e i tedeschi usavano lavarli tutti nudi, come la scena che ho visto nei campi di raccolta. Siamo diventati come i tedeschi di Hitler. Milano, dalla mia parte non si dice cagarella musica, si dice cagarella fischio. Il sagrestano pelato vuole prenderci per stupidi, non conoscendo lui la matematica e la lingua italiana. Prima vuol farci credere che il 130% di una quantità è un acconto. Poi vuol farci credere di avere abolito il finanziamento pubblico ai partiti, mentre lo continua a pagare per altri 3 anni. Per il dizionario della lingua italiana Devoto Oli, la parola abolito significa annullato o soppresso. Salve, sono Matteo Renzi, volevo illustrare gli italiani il mio programma. Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Chiaro, no? Vabbè, questo è il programma di Renzi, secondo i nostri ascoltatori. Mario, vuoi dire qualcosa? Non è necessario, Quello era chiavegato, hai sentito? Pensavo fosse lo stesso accento da Forcone. Vabbè, allora arriva un messaggio, dici: io non scherzerei troppo sulla faccenda dei Forconi. Forse non era ancora il tempo giusto, forse hanno sbagliato condottiero, ma la gente è incazzata. Condottiero, tra virgolette, il però. Il Duce hanno sbagliato, c'era un po' di fascisti lì in mezzo, attenti, attenti a prendere per il pelo sta gente va detto quello che è spiccia, è roba secondaria, insomma, ricordate, la gente è peggio, la gente è peggio. Vincino, salvami tu, ma tu non mi salvi perché tu dici. Dire, no, è lui, un linguaggio veramente politicamente scorretto, come non assolutamente. Questi poi sono raffinati, Casa Pound, parlano inglese, americano. Sì. Allora io alle 8:15 avrò il ministro Kyenge ospite. Allora, questa vicenda di Lampedusa, adesso l'Unione Europea dice ci tolgono, è terribile. Tu dici è terribile, Vincino. No, è da dimissioni del ministro degli interni, guarda, perché lui lo sapeva da 3 mesi che era così la situazione. Ma che sa cosa, come gestiscono una cosa all'interno? Ma lo sa, ma la schifezza di Lampedusa la sapevamo tutti, perché bastava usare un poco di fondi del Ministero degli Interni, tutti la sapevano, bastava usare un problema e farlo, no? Non è che ora fa lo stupito, il responsabile, ma che responsabile? Lo sapevano tutti che funzionava così, che non è, il problema non è la doccia, il problema è proprio il disastro di tutto quel centro là. Mario, che devi dire? Addirittura il disastro dei centri di prima accoglienza purtroppo sono non solo Lampedusa ovviamente è un avamposto, quindi è in una condizione di estrema difficoltà. ma sono d'accordo con Vicino, questa è una questione da fondi da utilizzare, e voglio dirlo, anche europei, perché l'Europa non può lasciare solo l'Italia su questa frontiera, insomma. Non, e infatti non ci hanno detto che ci tolgono i fondi, infatti ci hanno detto vi togliamo i fondi adesso, se li gestite così. Bene. Questa è la porta dell'Europa, ma noi non sappiamo in Italia rimbiancare un posto, cioè un alberghetto non lo sappiamo mettere per 200 persone, scusa. L'alberghetto, vabbè, ma non è... quello è un albergo, un ostello, una cosa, dobbiamo fare un ostello, 4 stelle per questi qua, che arrivano, che bella l'Europa. Vabbè, vabbè, che devo dire? Mario, io vi devo salutare per Natale, che fai oggi alle 8.15, alle 8 su Radio Yes? Oggi certo. Vogliamo di riforma elettorale, tragica la riforma elettorale, ritualità del giovedì mattina. Mamma mia, no, ma non sei obbligato. Ma gennaio si fa, quindi devo spiegare ai miei radioascoltatori un po' caproni come i tuoi, come funziona. Insomma, ragazzi, vabbè, buon Natale, nulla, buon Natale anche a te. Comunque, buon Natale a Mario Adinolfi, buon Natale a Vincino. Che dobbiamo dire? Andiamo a sentire le informazioni del giornale radio. Rientriamo con la rassegna stampa subito dopo. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, le 7:17 minuti, pronti con la rassegna stampa. Cari italiani, dai, forza, forza, lo schema Allegri è sempre inserito. Dai, dai, dai, 3 giorni ancora di queste sveglie, poi sarà Natale. E forza, debosciati di tutta Italia, uniti, andate a lavorare. E allora vi ricordo che oggi avremo ospite tra un'ora esatta il ministro Cécile Kyenge, perché parleremo di quello che sono le immagini di Lampedusa, ma parleremo anche, torneremo sulla vicenda degli italiani bloccati in Congo, come sia possibile davvero questa impasse burocratica incredibile di famiglie, 26 famiglie che hanno adottato regolarmente dei bambini, sono andati lì per portarli in Italia, sono i loro figli riconosciuti, ma non riescono a uscire per burocrazia congolese. Vedremo se il ministro Kyenge ci dirà cosa sta facendo l'Italia. Intanto andiamo a sfogliare i giornali. In questo giovedì 19 dicembre i titoli: c'è chi si concentra sulla manovra, la stabilità verso la fiducia, e il Sole 24 Ore, per esempio, il titolo di prima pagina è: alleggerita la web tax, corsa alle micro spese. Per il Corriere della Sera invece il titolo molto poco incoraggiante: freno al taglio delle tasse. Insomma, quello che ci diceva anche ieri il Sole, e cioè i risparmi della spending review serviranno prima a coprire l'altra spesa e poi, se ce n'è ancora, per tagliare il cuneo fiscale. Io nel mio profilo Twitter Alino Milan l'ho messa così. Vi spiego il lavoro di Cottarelli, no? Il commissario della spending review: taglia della spesa di qua per coprire della spesa di là. Avvenire: la stabilità è scritta, le famiglie soffrono. Questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano: giochi, banche, caltagirone, il governo dei larghi favori. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre per il Giornale l'apertura è: questi sono pazzi, follia fiscale, più tasse agli artigiani per trovare i soldi degli esodati. Repubblica invece su Lampedusa, schiaffo dell'Unione Europea. La Stampa: legge elettorale, Renzi ad Alfano va fatta con tutti. E il Messaggero: legge sul voto, Renzi accelera. Mentre per Libero: primo sì alle nozze gay. Questo è il titolo di prima pagina. Blitz del PD e dei grillini al Senato, corsia preferenziale per le leggi che introducono i matrimoni omo.

dell'articolo più inutile scovato sui giornali. C'è a tutte le feste, cioè io ieri ero un pochino giù, ho detto ma perché saranno queste feste così che ti mettono un po' giù, eccolo qua, è arrivato l'articolo sul Giorno che oggi stravince per il premio La Carta Costa con Enrico Fovanna il Christmas Blues. Il Christmas Blues, che non è una musica, ma è quella mestizia, quell'essere cupi che ci coglie nelle vacanze. Attenti al Christmas Blues. Le feste amplificano le fragilità con tanto di intervista al tanto di psichiatra di turno, in questo caso lo psichiatra Claudio Mencacci, che parla è il Christmas Blues, la depressione legata alle feste, sotto i morsi della crisi che non accenna a finire, si fatica a recuperare un realistico ottimismo, uno spirito di rinascita che le festività vorrebbero consegnarci. Aumenta la depressione insieme ad altri disturbi, è la nostra preoccupazione che questo riduce le capacità e le possibilità di curarsi. Ma dai, affrontate le feste con un po' più di ottimismo e sempre con il solito mantra, amici del Quotidiano Nazionale o Giorno, che dir si voglia, la carta costa. Christmas Blues, sì o no, che ci sia oppure no. Rientriamo con il ministro Cécile Kyenge dopo il giornale radio. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 8 e 18 minuti puntuali in questo momento che scattano, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, io sono collegato nuovamente con Kinshasa. Ieri abbiamo raccontato la storia dei genitori che sono bloccati, genitori di famiglie di bimbi che hanno adottato, che sono bloccati da alcuni casi da un mese abbondante in Congo perché non riescono a tornare per una questione di burocrazia. Voglio salutare Guido Tota e gli chiedo ancora di avere un attimo di pazienza. Signor Tota, buongiorno e grazie di essere con noi, perché noi siamo anche collegati, e la voglio salutare, la ringrazio, con la ministra all'integrazione Cécile Kyenge. Ministra, buongiorno e benvenuta, ben ritrovata a Radio 24, eccoci qua. Grazie, buongiorno. Poi parleremo ovviamente di questa vicenda del Congo, ovviamente però l'attualità impone la questione di Lampedusa, con le immagini che abbiamo visto diffuse dal TG2. Le chiedo questo: se l'Unione Europea dovesse applicare quello che ha minacciato, cioè blocchiamo i fondi per la gestione terribile di quelle immagini, secondo lei l'Unione Europea farebbe bene? Io credo che in questo momento serve comunque la possibilità di dimostrare anche che siamo capaci di applicare degli standard dignitosi per l'accoglienza, ma anche per il rispetto delle persone. In questo momento il monito dell'Unione Europea ci ricorda che siamo all'interno di una grande famiglia, all'interno dell'Unione Europea, quindi ci dovremo adeguare anche a quelle norme. Su questo sinceramente credo che noi dovremo fare un grande lavoro di monitoraggio, censimento, proprio per riuscire a controllare, a verificare che siano effettivamente così. Questo sì, però la minaccia è più concreta, cioè se dicono togliamo i fondi, le chiedo nuovamente, è una minaccia proprio, è una questione più stringente, cioè è una minaccia che lei capisce? Io capisco la minaccia dell'Unione Europea, ma credo che prima di ritirarla dovremmo essere in grado di dimostrare, di far capire. Le immagini che abbiamo visto sono state condannate da tutti, non rappresentano l'Italia, ma dovremmo essere in grado, prima di passare a una decisione così drastica, di poter dimostrare effettivamente qual è il livello della nostra accoglienza. Insomma, fare un'inchiesta, che è l'inchiesta che credo già il Premier Letta abbia detto di iniziare. Esattamente. Però le chiedo, il governo davvero si può tirar fuori dalle responsabilità? Cioè, com'è possibile che un governo non sappia cosa succede all'interno di centri che dipendono dal governo? Ma penso penso che bisogna distinguere un attimo anche i livelli di operatività, bisogna distinguere anche i livelli, un conto è la responsabilità diretta, cioè nel senso la responsabilità di chi opera, di chi lavora tutti i giorni a contatto con le persone, un conto è un altro tipo di responsabilità, quindi sono responsabilità diverse. Noi possiamo parlare in questo caso di una responsabilità di poter avviare e fare in modo di mettere sul campo delle linee guida che devono essere rispettate, le linee guida sull'accoglienza che devono essere quelle conforme e dignitose agli standard della comunità europea. Sì. E questo è un altro tipo di responsabilità, un altro tipo di livello di comando, se si può dire. Cioè, c'è quella diretta. Lei dice quella politica o quella diretta. A proposito di diretta, lei ha visto che sono stati allontanati i responsabili, i dirigenti, diciamo, della cooperativa che gestisce, la soddisfa, cioè è una decisione giusta secondo lei, viste quelle immagini? Sì, è inevitabile. Credo che in un periodo come questo, dove tutti i paesi, soprattutto i paesi democratici come anche il nostro, deve dimostrare comunque il rispetto dei diritti umani, deve dimostrare comunque il rispetto, ma anche l'adeguarsi a certi standard. Noi non possiamo continuare poi a vedere immagini come queste sicuramente non stupiranno molti di quelli che lavorano in questi campi, perché sono stati denunciati più volte. Purtroppo, quando io parlavo di responsabilità diretta e di responsabilità che possono essere a un altro livello, entra anche in quello che sono l'ispezione, cioè ispezioni che sono sporadiche, che molte volte, magari facendo un'ispezione una volta, cioè sapendo che una persona arriva, è chiaro che non mi fanno trovare quella situazione. È chiaro, cioè lei quando dice quando io sono andata non ho mai visto, perché viene tutto, ma sta dicendo che viene tutto apparecchiato in una maniera diversa quando arrivano le autorità. Da una parte è così, però da un'altra parte bisogna anche tenere presente che non in tutti i centri sicuramente la situazione è questa. Il motivo per cui noi sicuramente avvieremo l'ispezione, e quello che io chiedo che con il mio ministero è proprio quella di poter accertarsi che quella che dico, nel senso che non sia magari fatta al momento perché c'è una visita, non possa corrispondere a questa, cioè dare l'opportunità a ogni centro, a ogni luogo di poter far capire che la situazione di regolarità, di rispetto degli standard sia la quotidianità, e questa si può dimostrare soltanto con un monitoraggio molto attento. Senta Ministra, ho due ancora domande e poi parliamo di questa vicenda del Congo. Lei paragonerebbe le scene viste a quelle di un lager, come qualcuno ha fatto? Ma diciamo che queste scene non sono piacevoli da vedere. L'unica cosa che posso dire è che dovremmo cercare di fare in modo che la storia non si ripeta più, e poi ognuno usa i termini che vuole, ma io sono uso un linguaggio che è questo del rispetto della persona, del rispetto dei diritti umani, ma soprattutto quella di cercare di non scendere a livello della disumanizzazione, perché quelle immagini sono lo specchio della disumanizzazione che rende praticamente una persona non persona, perché c'è una promiscuità totale, cioè non c'è più intimità della persona, e credo che questa sia veramente umiliante per un essere umano. Questo certo. Molte cooperative che gestiscono i centri, alcune cooperative sono diciamo politicamente vicine alla sinistra, anche al suo partito, al PD. Questo non la imbarazza? Ma bisogna dimostrarlo. Questo è quello che dice lei. Insomma, tutti i giornali raccontano le cooperative considerate di sinistra, alcune vicine a Comune Liberazione. C'è un po' di differenza, ecco. Perché gli dico, questo è quello che dice lei, perché bisognerebbe cercare di avere delle prove prima di parlare, perché bisogna distinguere le cooperative nell'edilizia, cooperative in quello che riguarda i servizi, cooperative, non sono tutti uguali. Non sono per tutti cui, uguali. In genere un'affermazione così va accompagnata anche da fatti, ma io so che non è così. Non è così. Allora, parliamo di questa vicenda del Congo, appunto, cara Ministra, perché tra l'altro, come detto, l'ascolta anche Guido Tota, è una delle persone che è a Kinshasa, non riesce a rientrare. Oggi leggiamo sul Corriere che addirittura le famiglie italiane rischiano di lasciare il Congo ora senza figli perché sono scaduti i loro visti. Le chiedo intanto perché, che cosa il governo sta facendo, ma di concreto, per aiutare queste persone che hanno adottato dei figli in maniera regolare e sono figli loro, portano il loro cognome, ma non riescono a uscire. Ministro Kyenge, cosa state facendo? Ma nella sua domanda ci sono anche delle inesattezze. E forse è il caso proprio di chiarire, cioè sì. In questo momento l'adozione da parte, le pratiche da parte del Congo, cioè dell'Italia, sono state dei percorsi regolari. Poi c'è l'altra parte, nella Repubblica Democratica del Congo, che è il paese che ha bloccato per una riforma interna, e sì. Dal comunicato del Congo sono stati bloccati per irregolarità, che in questo caso non ha puntato il dito contro l'Italia ma contro tutto il mondo, per irregolarità e corruzione. Chiaro. E quindi la parte dell'Italia, la fase dell'Italia, della Repubblica Democratica del Congo, per alcuni genitori è arrivata fino in fondo, ma manca il nulla osta per poter uscire dal chiaro. Paese. No, ma quello che sta arrivare facendo, cioè che tipo di pressioni state facendo per far firmare da parte delle autorità congolesi, manca l'ultima firma per farli uscire? Cioè, le attività che stiamo facendo sono molto intense, perché noi ormai da diversi giorni che siamo in contatto con le autorità locali, siamo in contatto con le autorità ministeriali, con tutti, per riuscire appunto a chiudere questa situazione, perché gli accordi presi erano quelli di fare un controllo per riuscire a vedere le pratiche che erano arrivate fino in fondo, perché in tutto questo c'è questa versione della Repubblica Democratica del Congo che dichiara di essere in possesso di diverse liste che non corrispondono a quelli che effettivamente hanno gli altri paesi, tra cui l'Italia. Quindi c'è questo problema. Però Ministra, mi faccia sentire allora, che così la faccio anche parlare direttamente. Guido Tota ci sente da Kinshasa. Buongiorno signor Tota, ben ritrovato. Sì, buongiorno. Ecco, c'è buongiorno il Ministro. Anche la signora buongiorno. Intanto Tota ci dica, è vero che rischiate di rientrare perché i vostri visti sono scaduti di alcune famiglie? Ma francamente i visti sono stati rinnovati, perché dopo un mese si paga una certa sì. quota di denaro e si rinnova il visto. Quello non è il problema sostanziale. Il problema sostanziale, come ormai tutti sanno, è che c'è questa situazione di stallo. In no, cui forse lui, forse il signor Tota ha detto una cosa su cui sì. Bisognerebbe soffermarsi sul sì. visto, perché vuol dire un'attività diplomatica molto intensa. Sarebbe il caso magari di dire... avete fatto rinnovare il visto, Ministro, ci sta dicendo? Io vorrei che lo dicesse un attimo il signor Tota, perché siccome lei mi chiede cosa stiamo facendo come autorità italiane, forse dovrebbe dirlo. Me lo dica, io non lo sapevo, ci ha dato infatti una notizia, Tota, cioè è stato rinnovato perché evidentemente c'è stata una pressione per rinnovare i visti. A me non è giunta così la cosa, nel senso che quando scadeva in prossimità la scadenza del visto abbiamo provveduto a che questo venisse rinnovato, però non sapevamo che ci fosse un problema e che quindi il governo avesse premuto. Le cose magari avvengono a livello diplomatico, non è che vengono, non vengono dette, diciamo, esplicitamente. Però signor Tota, c'è il ministro dall'altra parte, non so, vuole fare un appello, sì. Vuole chiedere qualcosa, di cosa avete bisogno, cosa secondo voi il governo italiano può fare per aiutarvi? Allora, penso che, anzi sono sicuro, siamo tutti sicuri che la Ministra con gli altri componenti del Governo stiano lavorando al massimo per tutte le strade della diplomazia percorribili. Quello che francamente mi sento di rinnovare alla signora Ministra è l'invito che è stato fatto poi tra l'altro anche dai nostri enti, da tutti gli enti che operano nel Congo, perché il Governo italiano, nella veste della CAI e quindi della Presidente, e inviano qui nel Congo un invito formale alle autorità congolesi per visitare l'Italia, per cosa che è stata fatta già quasi 3 anni fa più o meno, e che ogni volta che la GGM stessa più volte ci ha nemmeno tanto velatamente propinato come una soluzione, come un elemento importante nello sblocco. Questo è il nostro invito. Cioè mandare un inviato, inviare qualcuno, ma non basta l'ambasciatore? Invitare in Italia una delegazione delle autorità congolesi, della DGM nel particolare, in maniera tale da far visionare da far prendere direttamente visione del sistema adozione italiano e del post adottivo, che è diciamo il... Cioè far vedere l'autorità congolesi che in Italia si fa tutto secondo norma. Ministra, potete fare questa cosa, non so, potrebbe aiutare a sbloccare... L'abbiamo sempre fatto, infatti io ho lasciato parlare il signor Totti fino alla fine, l'abbiamo sempre fatto, ma lo sanno bene anche le autorità congolese con cui ho parlato e con cui sono in contatto tutti i giorni, e il nostro paese è sempre stato disponibile ed è l'unico, uno dei pochi paesi con un percorso di post-adozione che permette di vedere anche come vivono le coppie, come vivono i bambini, e questa me lo può confermare anche il signor Tota, sì. È uno dei pochi paesi che lo fa, e la nostra posizione è sempre stata molto aperta, molto favorevole. Io credo che in questo momento ci sono posizioni che sono anche quella di tecnici che fanno la loro parte, che sicuramente sono quelle della DGM, ma quello che mi sento di dire è il mio sostegno verso le famiglie, che in questo momento probabilmente hanno bisogno di un sostegno molto forte, ma non sostegno sicuramente, però loro vorrebbero anche proprio tornare in Italia. A questo proposito, quello che stiamo facendo, ecco, è proprio quella che noi stiamo cercando di fare, ci può dare, lo so, no certo, lo so, lo so che ci vuole molta prudenza in queste cose, ministra, ma lei ci può dare dei tempi, presumibilmente, a dire a queste famiglie che la stanno ascoltando, a dire guardate, tenete duro ancora tot giorni, ma vedete che si sblocca la situazione? È proprio quella che secondo me bisognerebbe evitare sulla tempistica, perché noi parliamo anche di famiglie che in questo momento stanno passando un momento molto duro. Io mi sento comunque di rassicurarli che stiamo facendo il massimo. Tra il mio ministero e il ministro degli esteri Emma Bonino ci stiamo adoperando giorno e notte, compreso anche il discorso dei visti che stavano scadendo, e sono contenta che l'abbia detto il signor Tota, perché noi stiamo lavorando minuto dopo minuto in contatto con le autorità, e alcune attività diplomatiche non vengono fuori, però si possono comunque poi cercare di verificare, perché il nostro impegno in questi giorni è veramente molto intenso. Allora, per concludere questa vicenda, ma noi con Guido Tota poi la seguiremo, ministra, vi chiarisca questa cosa, perché alcune famiglie pare si siano un po' arrabbiate per un suo intervento in Parlamento che suonava un po' così. Anche le famiglie sono state un po' responsabili, cioè sono andate giù quando non era ancora tutto chiarito il percorso di adozione. È davvero così? Hanno una responsabilità anche loro, alcune famiglie, oppure no? Ma io non ho parlato di colpe sulle famiglie, non ho parlato, quindi ci sono stati estrapolazioni che non hanno tenuto conto di tutto il contesto. È chiaro che gli accordi presi con le autorità locali erano quella di un controllo delle liste per riuscire a capire chi poteva andare, ma io credo che in questo momento non sia il momento di cercare il colpevole, ma sia il momento di cercare di dare una soluzione possibile a chi si trova nel disagio. Tutti questi passaggi, in quanto presidente della commissione CAI, mi portano comunque a far poi in un prossimo futuro una riflessione molto forte su alcuni percorsi giuridici, alcuni percorsi proprio di rapporti anche con i paesi di, da dove provengono i bambini, dove si cambiano le regole in corso d'opera e non permette comunque poi di essere lineare in un certo percorso. Cioè, può essere che la Repubblica Democratica del Congo possa essere esclusa anche non rispettando i patti dai percorsi di adozione internazionale in futuro? Ma Ma non ho detto questo, ma credo che bisognerebbe fare una riflessione per guardare anche i paesi che ci danno maggior garanzia. Intanto, signor Totta, io la saluto e la ringrazio. Se voglio qualcosa ancora di dire, approfittando della presenza del... Sì, no, volevo semplicemente dire alla ministra che se mi sono diciamo permesso di ribadire questo invito per da fare le autorità congolesi, perché le autorità congolesi stesse, almeno a noi, ci hanno sempre detto di non aver ancora ricevuto questo invito, e anche l'ambasciatore ce l'ha ripetuto all'ultimo incontro. Quindi semplicemente per questo, se poi lei l'ha fatto attraverso canali ovviamente diversi, va bene anche così. Vabbè. Però ecco, ci tenevo a fare questa precisazione. Vabbè, intanto, e poi anche sì. Comunque... sì, dica Toto, dica. No, e invitare la ministra a fare quello che sta facendo, perché la vorremmo partecipe della nostra vicenda, visto che lei più di tutti può conoscere le dinamiche di questo paese. Questo sì. Totta, intanto la ringrazio. Ministra, io una domanda, gliela devo fare una domanda personale. Non mi interessa entrare nelle sue vicende personali, delle sue vicende familiari, ma lei ha lanciato un dibattito ieri, lo sa, ne è conscia, su un'intervista a Vanity Fair. Lei ha detto che quando una donna in una famiglia porta a casa i soldi e guida il timone ed è una donna di successo, la coppia si sfascia o rischia di sfasciarsi. Cioè ha detto che in pratica che c'è questo retaggio culturale in Italia per cui la donna stia a casa a curare le questioni di casa e l'uomo deve avere successo. È davvero così secondo lei in Italia? Ma io credo che non sia da generalizzare, cioè nel senso che l'Italia in questi ultimi anni ha fatto dei passaggi molto forti, cioè partiamo soltanto da quella della posizione delle donne all'interno delle imprese, la posizione delle donne nella politica. È chiaro che questi passaggi, questi percorsi devono andare ancora avanti. Io non piuttosto la metto su un altro lato, che è importante, e questo insisto, ci sarebbe da lavorare ancora tanto, è la conciliazione dei tempi per quanto riguarda la donna, una mamma, una donna che fa la mamma, una donna che è impegnata a fare politica, una donna che è impegnata a fare tante altre cose. C'è ancora da lavorare molto sulla conciliazione dei tempi, e questa rischia di incidere pesantemente sulla vita di una coppia. Io la ringrazio intanto per essere stata con noi. Noi seguiremo ovviamente questa vicenda delle famiglie. Grazie ministra e buona giornata ovviamente. Cécile Kyenge, ministra per l'integrazione, così come ringrazio Guido Tota. Non vi abbandoneremo, cioè vi seguiremo passo passo. Intanto la notizia importante è che i visti che il Corriere dice stavano per scadere, in realtà sono stati rinnovati, quindi almeno potete stare con i vostri figli lì. La pubblicità, rientriamo. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:43 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. Come detto, seguiremo questa vicenda delle famiglie bloccate in Congo sicuramente. Intanto io voglio parlare di una vicenda di cronaca che si può anche associare, ne volevamo già parlare, e voglio per questo salutare un sindaco, il sindaco di Colico, siamo in provincia di Lecco, si tratta di Raffaele Grega, che saluto. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, noi volevamo parlare di quello che è successo di recente a Colico, ma non solo a Colico, ci sono state delle persone che hanno fatto delle ronde per la sicurezza, ma mi ha colpito anche, vorrei accomunare questa vicenda a quello che è successo a Serle, un paese invece in provincia di Brescia, dove c'è stato un albanese che è stato ucciso nei giorni scorsi, e l'accusa nei confronti di una persona di esserlo andato a cercare dopo che questo albanese aveva fatto un furto nella casa del fratello. L'accusa è quella, e il rischio che si sia fatto giustizia da solo. Perché vogliamo accomunare queste due vicende? Perché se non sbaglio a Colico queste ronde ci sono ancora, caro sindaco? Mi pare di no. No, guardi, rispetto alla situazione che si è venuta a creare circa un mese e mezzo fa, la situazione è tornata assolutamente alla normalità. E comunque sì, parlare di ronde è un pochino eccessivo. Diciamo ronde o comunque persone che... persone, esatto. Ma perché delle persone si devono aggregare di sera per cercare di dire andiamo a vedere se è tutto tranquillo? Cosa spinge alcune persone a fare questo? Ma guarda, io leggendo anche un po' le cronache di questi giorni, anche rispetto a quanto accaduto a Serle, mi pare che più o meno i fatti siano simili. Ci siamo trovati praticamente intorno ai metà ottobre in avanti praticamente una particolare intensità nella consumazione dei furti sul territorio, posto che è un fenomeno che ciclicamente ogni anno, specialmente con l'arrivo della stagione in cui le giornate si accorciano, insomma ci sono sempre episodi di questo tipo. Quello che è accaduto quest'anno, diciamo, è stato un pochino diverso rispetto alle altre situazioni di questo tipo, in quanto è aumentata l'intensità dei furti, anche l'anomalia, anche orari abbastanza strani, non so, alle 7 alle 6 di sera con le persone in casa, con una sfrontatezza particolare. No, ma è chiaro, aumentano questo, i furti anche con maggiore aggressività e quindi un numero più o meno piccolo, grande, non si sa, di cittadini. Beh, lei non, insomma, ecco, effettivamente non le piace la parola ronde, però come definirla, insomma? Effettivamente questa cosa ha creato un particolare allarme, una particolare paura, tensione che effettivamente c'è stata, quello nessuno lo può negare, anche un gruppo di ragazzi hanno ritenuto la sera così di scendere in strada, presidiare, che ne so, le strade, gli incroci, i punti magari più, cioè, dove non si può immaginare che mai ci sia un maggiore transito, per cui controllare un po' la situazione sul territorio. Controllare la situazione. Tra l'altro, io non l'ho detto, ma il sindaco Grega di Colico è un ex carabiniere. Lei è stato carabiniere per quanto tempo? Sì, per tutta la carriera, per 32 anni. 32 anni dei carabinieri. Ecco, allora io dopo le informazioni sul traffico, caro sindaco, vorrò ripartire da qui, perché insomma controllare il territorio da parte delle persone, dovrebbero esserci le forze dell'ordine a controllare il territorio. Allora capire che cosa spinge delle persone a fare le cosiddette ronde, ma anche che cosa spinge le persone a dire, per quel che è successo a Serle, dove, ripeto, l'accusa nei confronti di Mirko Franzoni è di essersi fatto giustizia da solo andando a cercare una persona che probabilmente aveva fatto un furto per ucciderlo, e spingere molte persone anche ad aprire su Facebook delle pagine di sostegno. Bravo, hai fatto bene, avrei fatto anch'io così, è giusto, stiamo tutti dalla parte, c'è stata anche una fiaccolata nel paese. Ecco, perché questo sentimento? Tra poco ripartiamo, tra un minuto. Eccoci qua, allora, siamo ancora con il sindaco di Colico, in provincia di Lecco, Grega. Allora, sindaco, intanto perché dei cittadini, secondo lei, da sindaco ma anche da ex carabiniere, 32 anni nei carabinieri, sono spinti a dare moti di solidarietà nei confronti della persona che probabilmente ha commesso un reato? È inutile girarci intorno. Certo, ma sull'aspetto della solidarietà, tra l'altro mi risulta che anche oggi su un giornale locale ci siano riportati alcune testimonianze appunto di solidarietà verso questo episodio. Sono apparsi anche questi giorni alcuni cartelli in paese, in località limitrofi, con frasi del tipo difendersi, cartelli così, lenzuola appese un po' agli angoli delle strade, 3 o 4 in tutto, del tenore: difendersi reato, rubare lecito, solidarietà a Mirko. Ecco, questo voglio dire. Ma questo, scusi, in paese da voi o in paese? No, anche in paese a Serle. A Colico, cioè anche a Colico c'è questa solidarietà nei confronti di... Ecco, ritengo che sia una cosa assolutamente, cioè, circoscritta a singole persone, sicuramente non riconducibili a gruppi organizzati o comunque a gruppi, a più persone che siano associate a questa cosa, perché è un episodio assolutamente circoscritto, però effettivamente per dire che... C'è anche la volontà di tenere alto un po' questa tensione. Ecco. Lei, appunto, facendo parte per una vita delle forze dell'ordine, in teoria adesso ci viene a dire che sono le forze dell'ordine che devono tutelare la sicurezza, sono loro i preposti a controllare. Devo anche dire che comunque, voglio dire, la nostra non è assolutamente una zona abbandonata. Se parliamo di Colico è un paese di quasi 8.000 abitanti, c'è una stazione carabinieri sul posto, c'è un presidio efficiente sempre presente, per cui non possiamo assolutamente lamentare l'assenza dello Stato. Appunto, a maggior ragione. Ecco, questo effettivamente effettivamente è stato un episodio che ha creato anche con numeri di una certa importanza, per cui anche l'allarme sociale conseguente, quindi c'è stata questa particolare esigenza di sicurezza, di controllo del territorio. Sì. Tra l'altro, ecco, premetto che all'insorgere della prima manifestazione in questa direzione è stato chiesto al prefetto una convocazione di un comitato straordinario. So che infatti il prefetto ha detto non tollererò nessun tipo di... Certo, il prefetto però è stata data una risposta assolutamente pronta, adeguata ed efficiente rispetto alla richiesta, tant'è che poi per tutto il tempo necessario fino a che la situazione è rientrata c'è stato un presidio maggiore, certo, una presenza maggiore delle forze di polizia sul territorio e l'emergenza è rientrata, cioè non abbiamo avuto per 10-15 giorni di seguito una presenza costante di più pattuglie sul territorio. Ma questo sì, diciamo, ha portato a un certo effetto. Io intanto, sindaco, la ringrazio. Vabbè, questo è anche uno spaccato d'Italia, il sindaco di Colico Raffaele Grega, grazie per essere stato con noi. Vorrei, prima di chiudere, tornare sul tema da cui siamo partiti. Ci sono tanti ascoltatori che ci hanno chiamato all'800 24 00 24, abbiamo toccato il tema di Lampedusa, abbiamo toccato la questione delle persone in Congo. Vorrei sentire, dare spazio a voi. Roberta ci ha chiamato, ci chiama da Roma. Roberta, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Che dice? Io volevo intervenire sull'aspetto, insomma, su questa vicenda della sembrerebbe pessima accoglienza da parte degli operatori dei centri di accoglienza, appunto, sì, nei confronti degli immigrati a Lampedusa e forse anche in altri centri. Però vorrei anche spezzare una lancia nei confronti degli operatori, perché mi chiedo, prima che si facciano delle sanzioni nei loro confronti, mi chiedo e chiedo al Ministro di verificare se questi operatori siano veramente nelle migliori condizioni per assistere queste centinaia e centinaia di persone che arrivano continuamente nei centri. Chiaramente un sovraffollamento c'è, soprattutto quando ci sono delle situazioni, non so, di tante barche che arrivano, questo è chiaro. Esattamente. Io credo che questi operatori, a costo di sacrificio personale, magari ore di straordinario non pagate, giorni e giorni, sì, di fatica continua, comunque sopperiscano a delle mancanze che non sono da attribuire evidentemente a loro. Quindi sentire il Ministro che come prima cosa dice faccio un'indagine per verificare le negligenze, sì, da applicare sanzioni, mi fa veramente inorridire. Perché da persona che lavora nella pubblica amministrazione, guardi, le garantisco che chi lavora per lo Stato veramente lo fa a costo di sacrifici quotidiani. No, ma questo è chiaro. Grazie Roberta. Vorrei andare, c'è spazio per Luisa dalla provincia di Monza e Brianza. Luisa, buongiorno. Buongiorno, dottor Milan, sono Luisa. Sì. 20 giorni fa la mia famiglia ha preso la scabbia dal cane. Sì. Allora, il momento in cui l'abbiamo saputo, casa nostra è diventata un delirio, perché ci siamo spaventati, abbiamo dovuto cambiare tutto. Ci siamo dovuti denudare, spalmarci di queste creme, riempirci i capelli, è successo di tutto. Io mi dico, no, se qualcuno avesse guardato dal buco della serratura quello che stava succedendo in casa mia e non ne avesse, probabilmente era la stessa cosa. Era secondo me la stessa cosa. Sì, però capisci, appunto, forse il problema è questo, cioè esposti così in mezzo a tutti, lei dice in casa sua, uno in casa sua non viene, cioè c'era una situazione di mancanza di privacy quantomeno, no, in quelle immagini. No, veniva fatto in maniera davanti a tutti. Già il fatto che ci fosse una persona col telefonino che poteva riprendere questo gesto della disinfezione, forse era un qualcosa di così fatto davanti a tutti, con quantomeno una scarsa tutela della privacy. Comunque Luisa, la ringrazio, insomma, ci ha raccontato questo spaccato personale. Che dire, ringrazio tutti, da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che potete scriverci 24 mattino @radio24.it, potete seguirci anche su radio24.it, ci sono i podcast e soprattutto su Twitter, se volete seguirmi, il mio profilo personale Alino Milan e invece quello della trasmissione 24 mattino, è molto semplice. A domani 6:30, siamo qui puntuali, dai.